Yes, people, questo è Jolly Roger. Yes, people, questo è Jolly Roger, venerdì 14 ottobre, ore 17, iniziamo questa nostra puntata. Seconda stagione per noi, la crew è tutta al completo, questa settimana ci sta anche la nostra amica Alice e ci sta la nostra amica e collega Elena. E niente, quindi iniziamo subito con il primo pezzo e poi torniamo e iniziamo a bomba la puntata con tante novità, tra cui la prima è quella del sito. Potete ascoltarci direttamente su www.pirateradio.it. Questa è la prima news della puntata, poi piano piano ne sveleremo altre. E iniziamo con un pezzo che è il mood di quello che si avvicina, cioè un allegro weekend, da come dicono anche pieno di sole. Quindi iniziamo così. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sun. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh. It's a wonderful Jolly Roger. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. And I stand there all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful. Wonderful, so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. E ritorniamo in diretta. Questo è sempre Jolly Roger. Abbiamo iniziato la puntata, ma ancora non abbiamo fatto i nostri primi saluti. Quindi salutiamo innanzitutto le amiche del gas che ci supportano, anzi che ci sopportano soprattutto. Salutiamo tutta la comunità del Brancaleone, salutiamo tutti gli amici, amiche e colleghi di Idea Prisma Cooperativa Sociale, che grazie alla quale è possibile aver creato questo progetto. E partiamo con dritti a cannone con l'intervento della nostra Alice. Settimana scorsa era assente, questa volta si è preparata alla grande. Passo il mic e vediamo cosa ci racconterà oggi. Ciao a tutti, oggi voglio parlare della frutta, di frutta e verdura. Ah, parliamo di frutta e verdura stagionale, visto che comunque è iniziato quello che è l'autunno, anche se comunque fortunatamente le ottobrate romane ci consentono di goderci ancora un po' di sole. Il mese di ottobre offre ottime verdure come zucca, cavoli, carciofi, funghi, radicchio, broccoli, finocchi, spinaci, fagioli, fagiolini, carote, cicoria e porri. Il radicchio ha proprietà depurative e digestive, contiene fibre A e acqua e fonte di vitamine C, K e B. Contiene potassio ed è ottimo cotto alla griglia. La zucca ha poche calorie, appena 18 per 100 grammi, è ricca di antiossidanti, utili per combattere i radicali liberi, contiene vitamina A e C. La zucca è molto versatile e può essere cotta al forno e alla griglia. In frittura e può essere usata per ricette sia dolci che salate. Anche i funghi buoni per il sistema immunitario contengono poche calorie. Okay. La frutta. Allora, abbiamo parlato di verdure, ora passiamo un pezzo scelto da Alice, visto che ha parlato tanto di cose salutari o altro, noi partiamo con un pezzo che è salutare, diciamo, almeno il titolo, e proseguiamo con la nostra puntata. Non mi sembra vero, ti ho incontrata per caso, ma nel caso non credo, quante cose da dire. L'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco che dura troppo poco, il tempo di una foto. Scherziamo con il fuoco, bailando il toro loco. Chissà se dopo tu vieni qui da me, vedrai che il cielo non ci trova. E questo è il mood di Jolly Roger. Poi mi manca l'aria, è caramello, non è cioccolata, perché ogni notte inizia con te, non riesco a nasconderti che... Mando mille messaggi, se ti penso troppo cosa posso farci? Mi sono fatto dei viaggi talmente lontani, è possibile andarci? Se il locale è già pieno, tanto noi entriamo dal retro, non ho problemi né con l'amore né col dinero. Con il fuoco, bailando il toro loco. Chissà se dopo po' sulla tua schiena, da soli, io e te. Prendimi per mano, non dirmi neanche se torniamo, che non mi importa dove andiamo, oh oh. Basta che vogliamo, oh oh. Sono la tua bocca, sento gusto caramello. Fermati un secondo, che se no non mi concentro. Vedrai che il cielo non ci trova. Questo è sempre Jolly Roger. Abbiamo parlato un po' di verdure stagionali, qui sembra una puntata molto salutista, dopo capirete anche il perché. E ora proseguiamo con i consigli della frutta. Siamo passati dalla frutta alla verdura e proseguiamo passando il mic ad Alice. La frutta del mese è molto varia: cachi, mele, melograni, pere, pompelmi, uova e castagne, fichi, kiwi, giuggiole, noci e mandorle. Il melograno è ricco di antiossidanti e antinfiammatori, contiene vitamina C è ricco di potassio, calcio e fosforo. Il succo previene la cistite, favorisce la diuresi, allevia i sintomi della menopausa e previene l'insorgenza di tumori al seno e alla prostata. Alla prostata, noi maschi purtroppo sappiamo cos'è la prostata. I cachi contengono potassio e magnesio, calcio e sodio, e sono ricchi di vitamine e soprattutto C, ottimo per salvaguardare la flora intestinale. Consigliato in diete ipocaloriche o per chi soffre di diabete, essendo ricco di zuccheri. Le castagne sono ricche di vitamine e di sali minerali. A proposito di castagne, qui stoppo un attimo Alice per ricordare che inizia questo weekend la saga della castagna a Canepina, provincia di Viterbo. Lo dico perché è il paese mio, quindi facciamo un po' di pubblicità. E ora ripasso il mic ad Alice. Hanno un indice glicemico elevato in quanto contengono molti carboidrati. Sono andate alle donne in gravidanza perché contengono acido folico, hanno proprietà lavorative per il fegato, contrastano la stitichezza. Il mese di ottobre offre anche timo, rosmarino, origano, prezzemolo, menta, maggiorana e zafferano. Perfetto, e questi erano i consigli sulla frutta e le verdure del stagionali. Siamo passati dalle ricette ipocaloriche del nostro amico Matteo. La settimana scorsa abbiamo parlato delle crepe alla Nutella, quindi giustamente dobbiamo compensare. Questa settimana parliamo solo di cose salutari. E ora passiamo a un altro pezzo sempre scelto dalla nostra amica Alice, che ha fatto parte di quello che è stato il mixtape di Jolly Roger. Il mixtape è stata un'avventura, diciamo, è stata la colonna sonora dei ragazzi, fatta apposta per diciamo rallegrarvi. E ora passiamo il pezzo scelto dalla nostra amica e poi proseguiamo la puntata. E poi passa un anno e ci sembra me. Mi trovi diverso, mi prendi la mano, da soli siamo tutti nessuno. Che vita è? La vita senza amore, dimmi tu che vita è? Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un l'Oktoberfest. Mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no. Ma dilla ieri che c'è sta Jolly Roger. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché e rieccoci qua, noi siamo tornati in diretta, questo è Jolly Roger come sempre dalle 17 alle 18 tutti i venerdì in diretta dal Brancaleone, anzi per essere precisi dalla bolla del Brancaleone. E ora passo il mic al nostro amico Luca. Buonasera a tutti, sono Luca, oggi vi racconterò del supplì nato a Roma. Il supplì al telefono, fritto, croccante, con la mozzarella filante e da mangiare rigorosamente con le mani. Il supplì è una vera istituzione romana, un assoluto protagonista dello street food della capitale d'Italia. Perfetto per una goduriosa merenda, per un pranzo veloce o per iniziare col piede giusto la cena in pizzeria. O da mangiare al volo fra una corsa e un'altra, se qua a Roma i supplì servono anche per mangiarli di corsa. Imprescindibile per un vero supplì romano è il fatto che sia al telefono, cioè che volta diviso in due il supplì, la mozzarella filante unisce quella metà spezzate, nasce ovviamente a Roma nei primi anni dell'Ottocento. La leggenda racconta che il termine supplì deriva dal francese surprise. Surprise! A quanto pare, un soldato francese trovarsi a passeggiare per le vie di Roma gustando la polpetta di riso appena fritta, definì la mozzarella nascosta al suo interno, verrà e proprio surprise, una sorpresa da termini italianziato, si trasformò successivamente in supplì. Perfetto, e questa è la storia del supplizio. Ora mandiamo un pezzo che dedichiamo, cioè prima cosa ne approfittiamo per salutare il nostro amico Giovanni Manno che si è trasferito in quel di Trieste. E a proposito di Trieste e di tutto il nord, noi salutiamo i ragazzi del Rigativo Padovan di Trieste, che da oggi diciamo inizia una sottospecie di collaborazione. La prima collaborazione è quella di conoscersi, poi piano piano qualcosa di buono uscirà sicuramente, perché questo è Jolly Roger e noi dedichiamo, la crew dedica a tutti i ragazzi di Trieste quello che è un pezzo che rappresenta diciamo il pensiero di Jolly Roger. E partiamo così, piano piano gliela famo. Nel cuore sola solamente foto di paesaggi. E non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavole vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster. Fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita. Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe. E Roma chiama Trieste. Dai fiori del mare, guerre lontane noi. Sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo. Passato come Dorian, portami dove vuoi, basta sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri, sopra il vetro dell'Audi non la pulirò più. E dal tuo nome è un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà. Noi siamo i giovani di Jolly Roger. Che portano al mare. Giovani wannabe. Figli dei fiori del mare. Guerre lontane noi. Sopravvissuti anche alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sul viso leggi il mio passato come Dorian. Portami dove vuoi. Con te inizia la belle époque. Che tempismo ho. Clock, bel teppismo, black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord. Dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the road, dammi un ghiaccio on the rocks. Posti che non hai visto mai. Negli sfondi di iOS, tra i pianeti di sport. Lasci il segno dovunque vai. Noi siamo giovani wannabe. Sia lontano da me. E invece a noi ci trovate sempre come di consueto tutti i venerdì dalle 17 alle 18 al Brancaleone di Roma. E detto questo passo il mic al nostro amico Luca, che chiaramente ci ha fatto una breve storia di quello che è il supplì, sulla storia del supplì. Ora parliamo dalla storia, parliamo a quella che è la ricetta del supplì. Ricetta del supplì. Ingredienti: riso, uova, mozzarella, ragù, pane grattugiato. Togliere il riso dalla padella e farlo raffreddare. Poi mescolare il riso con uova, mozzarella, poi unire tutto, poi mettere in una padella olio per friggere, mettere i supplì, dopo che sono cotti, toglierli, mangiarli e buon appetito. Bomba! Detto questo, proseguiamo con un altro pezzo scelto dal nostro amico Luca. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Dynamite, shoes on, BTS. More cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home. Jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone. Nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy. Can't hear the bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey. Yeah, this beat you trade like money. Disco all alone. I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, it's like E ritorniamo in diretta, torniamo sempre con il nostro amico Luca che ora ci racconterà alcune cosette e proseguirà con la sua rubrica sulle, su quella che ormai è diventato un must, le battute. Allora, Luca ora ci racconterà quella che è stata la sua settimana. Martedì con il mio operatore Andrea Fiore siamo andati al negozio snack americani Bubble a Via Nomentana 303. Ci siamo presi. Io ho preso una Fanta Strawberry molto buona e lui una Dr. Pepper classica che ha pagato tutto lui. Io non ho voluto spendere perché faccio il tirchio. Beh, lui è un po' tirchiazzo, poi detto sinceramente sono cose che io non conosco, quindi suppongo che almeno fossero buone, visto che sono state anche le anche ricevute come offerta, ancora di più sono più buone. Poi abbiamo camminato per andare a casa, ma abbiamo preso molta pioggia, siamo stati alla Conad, abbiamo visto un amico di mio padre che si chiama Leandro, poi siamo tornati a casa. A questo punto salutiamolo l'amico Leandro. Poi siamo tornati a casa e ho visto il mio amichetto Leo. Dai. Offerte Carrefour. Monster Energy Ultra Watermelon. Un Monster Energy Ultra Festa Mango a 1,50€. Ragù classico Barilla 50 centesimi. Prosciutto Parma DOP a 2€. Di origine protetta. A soli 2€. Olio extravergine d'oliva. Moni a soli 50 centesimi. Dai, allora passiamo a un altro pezzo che il nostro amico Luca ha scelto e poi ci racconterà le sue battute. Un pezzo che è stato un po' la storia della musica della fine degli anni 70 e anche un po' della televisione italiana. Time quando c'è Jolly Roger. Ora, come avevo detto e anticipato prima, è il momento delle battute del nostro amico Luca. Passo subito il mic e vediamo cosa ci racconterà questa settimana. Ieri ho litigato con la mia stampante e gli ho detto: ehi, abbassa il toner. Sai cosa disse Mosè all'acqua? Naturale dall'altra, vizzante dall'altra. Sai cosa? Sai con chi va in giro una sigaretta? Quando diventa nonna? Con la sua nicotina. Bomba, queste erano le battute del nostro amico Luca. Ora, visto che è venuto il nostro amico Lucone a farci compagnia come sempre, passiamo un pezzo che diciamo è la romanità per eccellenza, soprattutto il gruppo che la canta, e poi niente, torniamo qui in diretta. Quel poveraccio conta con le dita, il medico e le tasse da pagà, ma il conto non gli torna su sta vita, se non ne può godere che campa fa. 20 anni fa lui prometteva bene, vedrai che belle cose che farà. Qualcosa è nato storto per la strada, la vita è palla lunga e pedala. Morì come gli pare, nessuno può campare come gli va. La verità è una cosa che fa male, chi venne fumo strilla libertà. Si è accorto che la patria è una galera, che l'uomo è buono solo a te preda. Ci si tormenta in qualche porta spera, qualcosa prima o poi lo smentirà. Chi sta a fa carriera, arrampicato all'arte a comandà, e da mattina fino a tarda sera, chi muove i fili lo farai penà. Non te riposi su sta polveriera, ti sembra tutta una pubblicità, e tra un aperitivo e una preghiera, se son dormiti senza volontà. Ciao cuore, ciao, picciandoli i dolori ringrazierai. Ciao cuore, ciao, picciandoli i dolori pagherai sparando al cuore. Ciao Core, ciao Trieste. Detto questo, passo il mic al nostro amico Matteo che ci racconterà. Iniziamo subito con i suoi pronostici. Buonasera a tutti, sono Matteo. Le partite del fine settimana. Noi Juve, vince la Juve. Ah, quindi il derby di Torino vince la Juve, insomma, non avrei qualcosa da dire, però va bene così. Empoli Monta vide l'Empoli, la Torino vide la Lazio, Verona vide Milan. Perfetto, mi raccomando, come sempre, è valido qualsiasi di solito discorso che facciamo, giocate, vincete, se vincete qualche spiccio, noi siamo qui, almeno una merenda ce la potete offrire, visto che comunque l'ora è quella della merenda. E detto questo, detto il pronostico, ha fatto bene il nostro amico Matteo questa volta a saltare i pronostici sulla Roma, però voleva dirci un'ultima cosetta e poi passiamo al primo pezzo scelto da lui. Oggi voglio salutare tutti i miei compagni di classe, classe terza, voglio bene. Dai, quindi salutiamo la terza E della scuola, di Matteo, o meglio dell'Orazio, che si trova qui sulla Nomentana. Passiamo un primo pezzo scelto da Matteo e poi proseguiamo con un'altra chicchetta del nostro amico, che abbiamo parlato di frutta e verdura stagionale, abbiamo parlato dei supplì, di come si fa il supplì, e insomma ci è venuta voglia di mangiare, ma non parleremo di cibo. Passiamo il primo pezzo scelto dal nostro amico Matteo. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? E siamo fresh qui a Jolly Roger. Good, yeah, I'm feeling alright, baby. E si sente che ci stiamo avvicinando al weekend. Allora, abbiamo parlato un po' di cibo. Abbiamo parlato di come si cucina un supplì. E ora parliamo di dieta, visto che dopo che si è mangiato il supplì, un po' di dieta tocca farli. Anche perché personalmente uno di supplì mi gratta solo lo stomaco, quindi almeno un paio e sto. Detto questo, passo il mic a Matteo. La dieta del calore, prima della partita, delle 3 del pomeriggio, con vite picottate o pane con marmellata, latte o yogurt Latte o yogurt? e caffè. Merenda metà mattina con la prono. 21 anni a Laccia, pranzo 3 ore prima della partita. A cosa si mangia a pranzo prima di scendere in campo? metto una cotta via di patate e calote, patate bianco con il mio olio o riso bianco. Paura, no. Bresaola o prosciutto? O prosciutto crudo con un po' di grana, crotata con marmellata e caffè. Noi abbiamo detto quello che si mangia dopo, poi magari parleremo di cosa si abbiamo detto cosa mangeranno prima della partita, un giorno spiegheremo cosa si mangerà dopo la partita. E niente, proseguiamo con l'altro pezzo scelto dal nostro amico Matteo. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Everybody, everybody, ascoltate Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E ora, come consuetudine, abbiamo il nostro amante delle lingue estere, quindi facciamo questa volta un saluto, dici un po' come e che saluto. Dopo aiuto. Che vuol dire? Certo. Sì, allora, perfetto, questo è il saluto che il nostro Lucone ha fatto in serbo e ora noi passiamo un pezzo che dedichiamo a tutta la parte femminile che fa parte di Jolly Roger, un pezzo che ha scelto il nostro amico Matteo, si chiama Bellissima di Annalisa. Insieme solo dentro casa che e stavolta il grande Lucone non m'ha detto una galla. Me lo merito. Il tuo modo di dire le cose che sesso fa. Mi sta impegnando ad essere più elastica. Ti sto pensando e non ti scrivo da tanto. È un classico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio però tu mi piaci. Oh oh oh. Ho fatto i salti mortali. Oh oh oh. Come detto lo dedichiamo a tutte le donne. Avevo voglia di voglia di. Che mondo sarebbe senza le donne? Quella volta ti aspettavo in San Laurent. Ero bellissima. mettiamo un po' di musica da ginnastica. È tutto il giorno che mi salvo da un pianto isterico. Vado a letto col pantaloncino dell'Adidas. E poi volevo dirti che non ci dormo più. Madonna, se mi manchi, sì, chiamatemi un medico. E poi senza avvisare sei qui. Oddio, però tu mi piaci. Oh, oh, oh, ho fatto i salti mortali. Oh, oh, oh, no, non mi dire che è tardi. Ah, ah, ah, avevo voglia di, voglia di, voglia di. Dove vai? Ed è bellissimo stare qui a Jolly Roger in compagnia delle nostre amiche e dei nostri amici. Allora, volevo ricordare e parlare di quello che è stato un evento abbastanza importante, soprattutto di inclusione sociale. Ed è stato il 10 ottobre. L'evento è stato organizzato in quel di Milano e si chiama Wiembrand Sport. Una serata di vero sport integrato ad altissimo livello tecnico, agonistico e spettacolare, in cui campioni olimpionici e paralimpionici italiani si sono sfidati contro squadre di International Star, composti da atleti olimpionici, paraolimpici provenienti da tutto il resto del mondo. Scherma, calcio, basket e volley saranno le discipline sportive in gara che hanno partecipato nella versione paraolimpica. Wiembrand Sport è un evento che vuole abbattere le barriere del pregiudizio e dimostrare che lo sport integrato non è solo possibile, ma anche in grado di mantenere il livello di professionalità e competitività tipici del mondo olimpionico. E questo è un sogno e una speranza che anche Jolly Roger piano piano svilupperà, si spera di sviluppare una piccola squadretta di calcio che darà piccole e grandi soddisfazioni. Detto questo, lo sport è bello se fatto da tutti, accessibile a tutti e a tutti. E ora questo è un pezzo che dedichiamo a tutti quanti gli amici di Pirate Radio, a tutti quelli che ci seguono sul canale Telegram e che ci riascoltano in podcast. E va così. Cesare Cremonini, Fabi Fibra, cipitati in un reale contrabbando. Ora il sesso che quello che ci piace a noi non è ruda, mai me lo contrabbandare gioie e dolori. Sogno un crash test in un Best Western, George Best via da Manchester, Mike Tyson che ne paga 7. Se contasse l'ansia siamo trendsetter. Motorini nella notte scura, puoi vedere l'Italia quando si alza il fumo. Settimana della moda, invitami alla tua sfilata e ti mando a fanculo. È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando al contrabbando. Giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, va tutto bene con Jolly Roger. Stai come sto di merda. Scriveremo ti amo in elvetica, sopra l'Unione Sovietica, cediamo Bocelli all'America, rimpiango la cultura ellenica, Paganini non concede il bis, Sergio bis, Amadeus porta a Sanremo i kiss, la trap e la drill, le droghe e le miss, la mafia, la chiesa, poi nasce Peris. È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove, forse in un sogno che sembrava un incubo ma era bellissimo, forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando al contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto a contrabbando, adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto a contrabbando, però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, come stai, come sto? Come stai, come sto? Altro che la notte degli Oscar, in giro da noi solo pazzi. Io frate ne conosco tanti che meriterebbero schiaffi da questi politici nazi, a tutti questi rapper scarsi. Bombe nucleari sulla mappa, qualcuno vada da Putin e gli spari in faccia. Passami il microfono, si rappa, passami la penna, però è finita la carta. Oggi tutto fa notizia, anche Gnazzo La Russa. Non accetto mai una riga per non finire su Striscia. Sembrava un sogno e stavamo volando via dal fango e dalla notte scura che ci fa paura. Ci fa paura Gnazzo La Russa. Che possiamo fare? E anche un po' Fontana. Contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te lo chiede, come stai, come sto, come stai, come sto di merda. Però ascoltiamo Jolly Roger, dai e tutti. Siamo arrivati alla fine di questa nostra quinta barra sesta puntata, dipende da come le vogliamo contare, a noi non ci piace contarle. E salutiamo tutti quanti gli ascoltatori, salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici che ci riascolteranno in podcast. Questo è l'ultimo pezzo per noi, chiudiamo in bellezza la settimana. Buon weekend a tutti e a tutte, passate un buon fine settimana in relax. Detto questo, passo agli amici e ci fanno un saluto veloce veloce. Ciao. Ciao a tutti, ti saluto Chicco. Ciao a tutti, vorrei salutare una mia amica che si chiama Mary. Dai Mary. Ciao. Grande Lucone. E noi passiamo l'ultimo pezzo e ci si riascolta settimana prossima. Gioia, toda belleza, el hombre, toda gioia, toda belleza, el hombre, belleza que rida, belleza que falta, belleza que rambla perdida en el barrio latino del mundo, belleza de oro, cada día me veo, belleza de nada, un mundo tan feo, belleza de todo el pasado olvidado que è la bellezza di Jolly Roger. Bellezza de noche, bellezza de todos los hijos que lloran sin nada comer. Toda gioia, toda belleza. Vaya mata que te dio, mata que te da, yo mata que te dan, vaya mata que te dio. Toda gioia, toda belleza. Pensé, vaya mata que te dio, mata que te dio, mata que te dan, vaya mata que te dio. Belleza divina, belleza perdida. Belleza que fuera una vez calavera, belleza galera, belleza del mar, belleza de paz, belleza que toca mi alma profunda, que llena mi vida. ¿A dónde vas? presente. Un ciao a chi presente. Dona gioia, dona bellezza. Voglio matare che ti dico, basta che ti dai. Io basta che ti tomo, voglio matare che ti dico. Dona gioia, dona bellezza. Me falta siempre. Son tu vento, que todo toca, toca y todo está más lenta de aplicar. Son tu vento, que todo toca, toca y todo está más lenta de aplicar. Son tu vento, que todo toca, toca y todo está más lenta de aplicar. Son tu vento. Yes, bon weekend.